Canta presso a me, oe, petramente. S'affaccia luna per vedere, per tutta sta marina, approcci da resina, se dici guarda la nave bene che fa. Venuta una voglia ardente te basa che viene ne ho in bella e da me stavo kill cappe ma vele night che lo si fa I'm